ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo per le canzoni, quando ti urlavo e tu non mi capivi. Io ti aspetto perché è nell'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo, in quelle sere dove il cielo ti prende per mano. E tu aspettami lì in alto sulla grande ruota, dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro. Prendimi per mano e disegniamo mille passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo per le canzoni, quando ti urlavo e tu non lo capivi. Che era un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che. Per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche so il perché. Che era un passo da perdere te, e tu eri un passo da perdere me. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte. Come la luce che filtra qui da questa finestra, come la vita che cambia ma resta la stessa, come un poeta che bacia il dolore, come la notte che ruba silenzi e ti regala paure. Io ti aspetto in una stanza che è sospesa in alto, tra la luce delle stelle, sto dannato inferno e vivi tu per me la vita che io rifiuto. Ti aspetto dove ti parlo, restando per sempre muto. Passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che. Per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche so il perché.